Focus Economia. Con Deborah Rosciani. E buonasera a tutti, sono le 17.09, fra una manciata di secondi le 17.10. Buonasera a tutti, benvenuti a Focus Economia per fare il punto della giornata economico-finanziaria, anche se per la verità l'attenzione generale in queste ore è concentrata a Roma, ai lavori del conclave appena appunto iniziato per la designazione del nuovo pontefice, anche se appunto ci vorrà ancora probabilmente qualche giorno di lavoro. Detto questo, andiamo alle nostre questioni economiche. Di cosa parleremo questa sera? Abbiamo tanti argomenti da approfondire. Prima di tutto vi dico come sta andando la borsa. La situazione in Europa è contrastata, a Milano era andata molto meglio questa mattina, a Milano le prime ore di contrattazioni le ha vissute tutte in territorio positivo, ha guadagnato oltre mezzo punto percentuale, poi abbiamo avuto un arretramento a partire dalla prima parte del pomeriggio. E anche adesso abbiamo meno 0,26% sul FTSE MIB, mentre le altre borse europee sono state in difficoltà e molto prudenti da questa mattina e hanno mantenuto questo tenore. Parigi è positiva, più 0,24%, Francoforte è negativa, meno 0,13%, Londra più 0,30%. Negli Stati Uniti che cosa succede? Che gli indici si stanno muovendo intorno alla parità e quindi Wall Street consolida i progressi delle ultime settimane che l'hanno portata ai massimi dal 2007. È negativo però il Nasdaq, l'indice tecnologico oggi perde mezzo punto percentuale. A Milano bene, molto bene impostati da stamattina, mantengono ancora questi rialzi molto forti i titoli Saipem e Mediaset in guadagno di oltre 5 punti percentuali, mentre in discesa abbiamo con 4 punti di ribasso Pirelli e Salvatore Ferragamo. Poi conosceremo meglio i dettagli di queste sedute perché i titoli stanno andando in questo modo. Beh, su Salvatore Ferragamo per esempio tante notizie non ci sono, questo è un titolo che sta di giorno in giorno toccando nuovi record e quindi ogni tanto il mercato si ferma, gli operatori traggono anche un po' di profitto dai rialzi recenti. Questo è il quadro di borsa, il quadro di Piazza Affari in una giornata che è stata caratterizzata anche da grande attenzione intorno all'attesissima asta di BOT ad un anno che era prevista per questa mattina, la prima grande prova del mercato dopo la bocciatura, il declassamento che abbiamo subito ad opera di Fitch, l'agenzia di rating, venerdì scorso. Il Tesoro ha venduto senza problemi tutti i 7 miliardi e 750 milioni di euro di BOT appunto collocati questa mattina, ma come era nelle attese i rendimenti sono andati verso l'alto all'1,28%. Domani è la volta di un'altra asta piuttosto corposa, il Tesoro mette sul mercato BTP a 3-15 anni e CCT indicizzati all'inflazione europea. Questo è il quadro un po' per quello che riguarda il mercato. Però noi parleremo anche di tanto altro ancora perché abbiamo da approfondire alcuni argomenti. In primo luogo un tema che preoccupa e non da poco l'impresa italiana. Parliamo di tutti quei crediti della pubblica amministrazione appunto vantati nei confronti delle imprese italiane. Ci sono cifre sempre più differenziate intorno all'ammontare di questi crediti. Qualcuno parla di 70 miliardi di euro. La Banca d'Italia dice che si tratta di 90 miliardi di euro. Oggi sul Corriere della Sera viene pubblicato uno studio di un professore di Bologna di cui poi vi proporremo appunto la voce, sentiremo appunto, così ci argomenterà un po' meglio questa nuova statistica che presenta. Secondo questo suo studio gli arretrati di Stato nei confronti delle imprese ammontano a 150 miliardi di euro e quindi oltre al fatto che ogni giorno aggiorniamo le stime, qua quello che non si aggiorna invece è il pacchetto delle ricette che possono smobilitare questi soldi e ridare un po' di ossigeno alle aziende. In tutto questo c'è anche il problema che riguarda invece il sistema bancario, sempre più asfittico, sempre meno generoso nei confronti delle aziende, che peraltro in questo momento, questa mattina una grande analisi su questo tema da parte del Sole 24 Ore, imprese che si rivolgono in banca non tanto per chiedere soldi per proseguire le loro politiche di investimento, ma per pagare gli stipendi, per far fronte alle spese correnti e per gestire l'ordinaria amministrazione. Questi sono i temi che sicuramente approfondiremo e poi faremo anche un focus sul settore immobiliare, anche questo un altro comparto in grandissima difficoltà nel nostro paese. Ricorderete qualche settimana fa il settore ha organizzato a Milano la giornata della collera. oggi si sono riuniti a Roma l'ABI, l'Associazione del Notariato e Asso Immobiliare, per presentare un pacchetto di soluzioni concrete anche in questo caso per uscire da questa impasse in cui questo comparto si trova. Per cui anche stasera ne abbiamo per tutti i gusti. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi se vorrete commentare con noi i fatti del giorno. Adesso le altre notizie in breve. Le notizie in breve che come sempre apriamo, ci si diverte in regia oggi, vedo Pietro La Corte. Apriamo con l'andamento delle quotazioni delle commodities, le più importanti materie prime. L'oro stamattina sui mercati asiatici avanzava a 1584 dollari l'oncia, mentre per quello che riguarda il petrolio a New York oggi ha aperto a 92,97 dollari al barile. Gli Stati Uniti sono sulla strada giusta per centrare l'obiettivo di raddoppiare le esportazioni. Lo ha affermato oggi il presidente americano Barack Obama, sottolineando che motore dell'export negli Stati Uniti sono l'agricoltura, il settore manifatturiero e la tecnologia. Cos'altro ha detto Obama? Commentando anche i dati recenti sull'andamento del mercato del lavoro, per creare nuovi posti di lavoro in America è necessario mettere in campo nuovi accordi commerciali. Barack Obama si è anche detto moderatamente ottimista sulla possibilità di realizzare un accordo di libero scambio fra Stati Uniti e Unione Europea. L'Unione Europea lo vuole più che in passato, ha sottolineato Obama. Spostiamoci subito in Europa. Nonostante la crisi, la Bundesbank tedesca nel 2012 ha visto un lieve incremento degli utili a 664 milioni di euro. È quello che emerge dal bollettino annuale della Banca Centrale Tedesca presentato oggi a Francoforte. La Banca Centrale Europea invece manterrà una politica monetaria accomodante fino a quando sarà necessario. Questa assicurazione è arrivata dal presidente della Bundesbank Weidmann in un'intervista a Bloomberg TV. Ha avvertito tuttavia che in tutto il mondo la politica monetaria è piuttosto espansiva, lo sappiamo bene, e questo potrebbe creare dei rischi per la stabilità finanziaria in alcuni mercati. Ancora dichiarazioni di Weidmann, l'economia della Germania è cresciuta solo moderatamente e per fortuna voi siete almeno cresciuti, e questo perché ha pesato la recessione di alcuni paesi dell'Eurozona e l'insicurezza generale dell'Eurozona, e ti pareva che chiaramente era colpa di altri. Anche queste dichiarazioni del presidente appunto della Bundesbank, che ha anche ribadito la crisi non è finita nonostante la recente calma dei mercati. Il Weidmann ha anche sollecitato i governi dell'Eurozona a risolvere i loro problemi alla radice, sempre lì che bacchettano, proseguendo le riforme. Weidmann ha detto tutto questo, appunto, lo ribadiamo, presentando il bollettino annuale della Bundesbank 2012. Ancora un paio di dichiarazioni da parte sua: i dubbi sulle riforme non contribuiscono a calmare la crisi finanziaria e al rasserenamento dei mercati. E poi le elezioni in Italia, e non poteva certo farsi mancare un commento su questo, probabilmente tirato per la giacchetta da qualche giornalista, le elezioni in Italia e la situazione politica fanno vedere ancora una volta che solo la politica può superare la crisi di fiducia dell'Eurozona. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza oggi a Strasburgo il cosiddetto two-pack, i due regolamenti che rafforzano la governance europea e fanno sottoporre le bozze di finanziarie dei paesi dell'Eurozona al controllo preventivo della Commissione già a partire dal prossimo ottobre. Come se la passano oggi gli altri paesi europei? Qualche dato: il deficit pubblico della Francia sarà senza dubbio al 3,7% del PIL quest'anno e non al 3% come fissato dal governo nel piano di bilancio presentato nell'autunno scorso. Lo ha fatto sapere il presidente François Hollande durante una sua visita a Digione. Il governo francese aveva già preannunciato che avrebbe rivisto il suo obiettivo di deficit e le sue stime di crescita per l'anno in corso. In Grecia invece la produzione industriale è scesa in gennaio del 4,8% rispetto all'anno prima e dello 0,5% rispetto a dicembre. Intanto il governo di Atene ha bloccato, sentite qua, il pagamento di oltre 18.000 pensioni per sospetto di frodi in seguito alle verifiche sugli assegni previdenziali condotte nel 2012. E intanto la DEI di uno dei due maggiori sindacati della Grecia, che raggruppa i dipendenti del settore pubblico, ha indetto per domani una manifestazione in piazza in segno di protesta contro la politica governativa nel settore pubblico, che prevede il licenziamento di decine di migliaia di dipendenti statali in base alle richieste dei creditori internazionali del paese. Dicevamo prima dell'asta del tesoro italiano, però oggi è andata bene anche in Spagna, è andata bene su più versanti, perché non solo la Spagna ha fatto il pieno nell'asta di oggi e ha collocato sul mercato 5 miliardi e 830 milioni di euro di titoli a 6 mesi e ad un anno. L'obiettivo massimo era di 5 miliardi e mezzo. La questione spagnola è che i tassi sono stati in discesa, al contrario di quello che è successo in Italia. Sul titolo semestrale il rendimento è sceso allo 0,79%. Dallo 0,85, quasi 86 di febbraio scorso, mentre sul titolo annuale è sceso all'1,36% dal precedente 1,54. Ancora un paio di dati macroeconomici italiani, poi andiamo al primo approfondimento di oggi. Andiamo all'Italia e ad alcuni dati Istat diffusi oggi. Tanto per cominciare, è un dato importante perché si parla dell'inflazione, dell'indice dei prezzi al consumo. Secondo l'Istat i prezzi su base annua sono cresciuti dell'1,9%. Siamo al valore più basso dal dicembre del 2010, in rallentamento anche abbastanza forte dal 2,2% di gennaio. Si tratta della quinta frenata consecutiva. Su base mensile c'è stato un aumento dello 0,1%. La buona notizia, anche se chiaramente questa è una notizia buona relativamente per lo stato di salute del paese, per il livello dei consumi, è che il carrello della spesa a febbraio è risultato meno caro, perché i prezzi degli acquisti più frequenti ruotano intorno al 2,4%, al minimo dal 2010. Nel 2012 le retribuzioni di fatto, i salari lordi per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno al netto della cassa integrazione, segnano, sempre in Italia chiaramente, nell'industria e nei servizi una crescita solo dell'1,9%. Anche questa è stata una notizia diffusa stamattina dall'Istat, è un dato in frenata sul 2011 e nettamente al di sotto del tasso di inflazione, che appunto nel 2012 è stato pari al 3%. Un'ultima notizia che ci ha fatto anche un po' sorridere, per la verità, in redazione. Sentite un po': il Ministero dei Beni Culturali promuove il ponte sullo stretto di Messina, ma lo fa fuori tempo massimo perché ha emesso questo parere favorevole il Dicastero al progetto definitivo del ponte, ma il parere, che era vincolante, è reso inefficace dal blocco definitivo al progetto avvenuto lo scorso 2 marzo. E questo qua è una notizia che la dice lunga, insomma, come si lavori nel nostro paese sul fronte pubblico. Direi che per le notizie in breve adesso possiamo anche lasciarle da parte. Andiamo subito al primo approfondimento di oggi. Allora lo salutiamo subito, il nostro Fabio Pavesi, che sorrideva con me della notizia di questo parere sul ponte dello stretto. È un paese surreale questo, no? Veramente ogni giorno ce n'è. Poi guarda, fuori adesso ogni realtà. Ho anche tutto il pacchettino di notizie divertenti che diamo ogni giorno, rimandiamo alla seconda parte della trasmissione questa rubrica dove raccontiamo di sperperi continui, costanti della pubblica amministrazione. Veramente qua, nonostante ogni giorno poi ne raccontiamo di peggio, non c'è mai fine al peggio, è un pozzo senza fondo, sì, si dice dalle è mie parti. È una sorta di circolo vizioso. Esatto, si gratta sempre il fondo del barile. Detto questo, abbiamo interpellato Fabio Pavesi perché questa mattina sulle pagine del Sole 24 Ore commenta questa analisi di Mediobanca che è stata diffusa ieri, secondo la quale le banche italiane avrebbero bisogno di altri accantonamenti in aggiunta a quelli già fatti nel passato per almeno 20 miliardi di euro, e questo per far fronte appunto a tutti i crediti problematici che hanno. Questo ha detto appunto in termini molto semplici. Un problema piuttosto importante, perché chiaramente se le banche adesso devono impegnarsi anche in questo ulteriore rafforzamento patrimoniale, c'è stato come una sorta, Fabio, di stress test interno, no? Mediobanca ha messo in luce anche un po' un'analisi di questo tipo. Sì, è questo. E mancherà ulteriore ossigeno alle imprese. E il Sole 24 Ore stamattina si sofferma ulteriormente di nuovo su quanto è grave la stretta del credito che grava sulle piccole imprese italiane che già soffrono. E qua c'è un'altra medaglia, un'altra faccia di questa medaglia, che già appunto soffrono del fatto che vantano tantissimi crediti nei confronti della pubblica amministrazione e non vengono vengono pagate le aziende? Questo è un tema sul quale invece si sofferma un'analisi di cui riporta questa mattina il Corriere della Sera, un'analisi del professor Emanuele Padovani, docente di economia aziendale all'Università di Bologna, che peraltro è già collegato telefonicamente con noi. Professor Padovani, buonasera. Buonasera. E come anticipavo appunto in apertura nel nostro programma, non 70 come si dice, non 90 come dice Banca d'Italia, secondo il professor Padovani questi arretrati di Stato nei confronti delle imprese italiane ammontano a qualcosa come 150 miliardi di euro, quasi il 10% del PIL italiano. Poi ci faremo raccontare appunto come è arrivato a compilare questa stima, questa cifra. Intanto Fabio Pavesi, 20 miliardi di euro di cui le banche avrebbero bisogno per, come dire, cuscinetto, come ammortizzatore per proteggersi da ulteriori situazioni problematiche. Come arrivate invece a quantificare questa cifra, Mediobanca? L'ha fatto Mediobanca, ma in realtà a gennaio lo fece una banca americana, Citigroup, a fine gennaio, arriva allo stesso risultato, arriva a 19,7 miliardi. E come ci arriva? Ecco perché poi siamo intervenuti con una sorta di sollecito critico a questo tipo di analisi. Perché Citi, che è una banca americana, dice le banche italiane devono portare i livelli di accantonamenti ai livelli del 2007, cioè prima della grande crisi. Ma è una sorta di esercizio accademico, perché tu non puoi portare i livelli di accantonamenti a quando il PIL cresceva, l'economia era in buona salute. Quando il contesto mondiale è ribaltato perché totalmente. Perché è come applicare la cura dell'austerità e del rigore a un malato. Cioè il problema vero, Banca Italia fa bene perché vigila sugli istituti, deve garantire la massima pulizia di bilancio. La sana e prudente gestione. Però il problema è che se tu intervieni in una fase già critica, perché ricordiamo che è da più di un anno in atto una fortissima stretta creditizia, i numeri sono inquietanti, sono a mancare stock di prestiti alle imprese e alle famiglie per 50 miliardi, due volte l'IMU, e quindi con un calo che è stato per le imprese del 6% e come media generale, quindi con le famiglie e con i mutui, del 3,5%. Ebbene, se tu applichi una pulizia di bilancio ulteriore alle banche, sacrosanta in via teorica, in una fase in cui già le banche, preoccupate dalle sofferenze, ricordiamo due numeri, le banche hanno sofferenze per 125 miliardi e crediti dubbi che arrivano a 200 miliardi, cioè il 10% dei portafogli prestiti delle banche italiane sono crediti di difficile recupero, che è un livello alto, molto alto. Ovviamente i banchieri, preoccupati da ciò e non da ieri, hanno già cominciato a pulire i bilanci e soprattutto hanno stretto i nuovi crediti. Hanno stretto a tal punto i nuovi crediti che il paese reale soffre enormemente. Oggi Banca d'Italia si inserisce dicendo non basta quella pulizia che hai fatto, ne devi fare ulteriore. E qui la nostra preoccupazione è il monitoring Banca d'Italia va bene, ma forse il momento è sbagliato. Mm-hmm. Perché tu non puoi applicare il rigore, come dire, del 2007 a una situazione che è completamente cambiata. È un esempio che forse non è tanto calzante, ma è come dire le famiglie italiane, ma insomma, ma perché non spendete di più, non consumate di più, quando da una parte la disoccupazione reddito, continua a crescere, il reddito non è sempre meno, il reddito cala, quindi non puoi tu incentivare a consumare quando il reddito disponibile diminuisce. Ma c'è un dato che c'è un dato però che assume la responsabilità dei banchieri, perché va anche detta una cosa, nel senso il dato inquietante è una sorta di paradosso, cioè i prestiti sono scesi 50 miliardi, ma i depositi dei correntisti italiani, infatti, come fanno, sono saliti di 75 miliardi nell'ultimo anno. Allora spieghiamola, è vero che sono uscite le banche straniere dalle banche italiane, quindi le banche italiane hanno sofferto un deflusso di fondi esteri che però è stato ampiamente compensato dai correntisti italiani, c'è stato una sorta di patriottismo finanziario da parte dei clienti italiani, che quindi non hanno abbandonato le banche come in Grecia e in Spagna, anzi al contrario le hanno finanziate. Il problema è che questi soldi rimangono nella pancia delle banche e non tornano ai clienti che hanno finanziato. E questa cosa pone un problema di responsabilità ai banchieri, perché la banca in fondo è un intermediario, no? Prende il denaro e lo deve prestare, ma se prendi il denaro e te lo trattieni, tu non fai più la banca. Certo. E poi c'è un altro dato, chiunque lo può sapere, il vostro conto corrente è remunerato allo 0,1%. E poi la banca si finanzia con altre forme più costose, ma la raccolta della banca costa circa il 2%. Però se tu vai in banca oggi a chiedere un prestito, se hai una piccola e media impresa, quanto ti chiede? Il tasso diventa il 6-7%. Cosa vuol dire tutto ciò? Che le banche, come se vogliono continuare a garantirsi gli stessi margini di profitto sui prestiti che facevano nel 2007-2006, quando la crisi non c'era. Ma questo è realistico. È come respingere la domanda di credito. Allora, in una fase in cui c'è la recessione, la produzione industriale perde del 10%, tu non puoi pretendere su un prestito di guadagnare lo stesso livello di guadagno che facevi uh-huh. quando la crisi non c'era, perché questo automaticamente vuol dire creare le premesse per la fortissima stretta creditizia, cioè tu allontani il cliente che chiede un prestito di fatto. Un cane che si morde la coda, come si dice sempre per utilizzare oggi un po' di proverbi che rendono così l'idea. Allora ti faccio sentire intanto anche quest'altra analisi che è molto interessante, questa mattina dicevo la riporta il Corriere della Sera, perché quando dobbiamo attribuire dei meriti anche agli altri colleghi dobbiamo farlo, e della sostanza appunto si parla della difficoltà delle imprese da un punto di vista molto interessante, sul quale anche alcune forze politiche hanno un po' fatto molta campagna elettorale un mese fa, due mesi fa. Allora intanto il tema generale del quale parliamo è quello del nuovo allarme per le piccole e medie imprese italiane che sono strette appunto nel credit crunch nel quale parlavamo poco fa con Fabio Pavesi, e mancati i pagamenti della pubblica amministrazione. Volevo ricordarvi che per esempio venerdì scorso il Centro Studi di Confindustria ha rilevato come il paese sia in piena emergenza credito, con il rischio di assistere ad una terza ondata di strette dei finanziamenti, quindi rimarchiamo quello che diceva poco fa Fabio Pavesi. I prestiti alle imprese sono in calo da oltre un anno, solo in gennaio si sono contratti del 5% rispetto al picco raggiunto nel settembre 2011, lo stock erogato si è ridotto di 46 miliardi, un evento mai accaduto dal dopoguerra, i tassi praticati alle imprese più piccole restano per di più elevati in media al 4,4%. È come se tutto questo non bastasse, non fosse sufficiente a soffocare l'economia italiana, non si sbloccano i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende private. Ufficialmente si tratta di 71 miliardi di debiti, per la metà scaduti da oltre un anno, riconducibili in gran parte al settore della sanità. Tuttavia questo dato potrebbe essere in realtà, e a questo punto ci crediamo tutti, molto sottostimato. Banca d'Italia parla di circa 90 miliardi di euro. Uno studio condotto dal professor Emanuele Padovani dell'Università di Bologna stima che l'ammontare reale dei debiti sia salito a 139 miliardi di euro circa, tutti riconducibili agli enti locali, più qualcosa in più che invece è riconducibile allo Stato. Professor Padovani, come è arrivato a stimare questa cifra? Allora, innanzitutto buonasera. E diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questo numero, i 139 miliardi di cui parlavo, in realtà è già stato pubblicato dal Sole 24 Ore il 18 di febbraio. Infatti mi sorprende che poi l'eco della notizia sia giunta oggi, quando poi questa notizia è stata ribaltata con il titolone sul Corriere della Sera. Ecco, questo numero, 139 miliardi, deriva dall'analisi di, diciamo così, una posta di bilancio, l'analisi di tutti i bilanci di comuni, province e regioni. La posta di bilancio, dicevo, che si chiama tecnicamente residui passivi. Cosa sono questi residui passivi? I residui passivi sono, diciamo così, quegli impegni di spesa, e tecnicamente un impegno di spesa è, diciamo così, un impegno che fa la pubblica amministrazione per acquistare servizi, per acquistare, tra virgolette, personale, per acquistare opere pubbliche, e quindi congelare le risorse a bilancio, individuando quindi il soggetto, poi in realtà con un distinguo che farò a breve, il soggetto creditore di questi ammontari. Quindi questi residui passivi di fatto sono impegni non pagati, quindi grosso modo appunto un impegno nei confronti di un terzo, generalmente il settore privato. Purtroppo a volte il settore privato è privato, indossa l'indumento privato, SPA, SRL, ma a volte è una società partecipata poi da questi enti. Mm-hmm. E quindi tutta la questione delle 3.000, 6.000 o addirittura 12.000 società partecipate pubbliche locali. E quindi di fatto impegno verso questi soggetti non pagati, quindi assimilabile a un debito commerciale. C'è da fare però un distinguo che è molto importante per capire come in realtà questi 139 miliardi siano composti. Cioè una parte relativa all'acquisizione di beni e servizi, dalle bollette dell'energia elettrica a servizi più sofisticati, pensiamo ai comuni, la gestione dei rifiuti o del trasporto pubblico, che viene contabilizzata nella cosiddetta parte corrente di bilancio. Ecco, questo ammontare, l'ammontare dei residui passivi della parte corrente, è pari, per regioni, comuni e province, pari a 57 miliardi dei 137 detti prima. E questi possono essere presi tout court come debito commerciale. L'altra parte, quindi i circa 80 miliardi rimanenti per arrivare a 139, sono invece della parte cosiddetta conto capitale, cioè per l'acquisizione di opere pubbliche, infrastrutture piuttosto che strutture tecnologiche, arredi, computer, software, eccetera, eccetera. Ecco, questa parte qui in realtà ha una genesi un po' diversa, proprio perché la contabilità degli enti, di regioni, province e comuni, ha una, diciamo così, segue il diritto amministrativo, quindi in realtà l'impegno che si fa sulla spesa in conto capitale non è il momento in cui nasce un debito nei confronti di qualcuno, ma è precedente, perché l'impegno è una specie di prenotazione di spesa, quindi si congelano delle risorse a bilancio per costruire una bretella autostradale, per costruire una scuola, l'infrastruttura di una scuola. Quindi è prima della procedura di evidenza pubblica che poi decreterà chi è il vincitore dell'asta, e quindi in realtà c'è anche una sorta, nella vincita dell'asta si assegna all'opera pubblica a chi poi la costruirà, e l'assegnatario generalmente vince anche sulla base di un ribasso a base d'asta, quindi questi 80 miliardi, se vogliamo, sono leggermente sovrastimati. Il punto però è questo: posto che la contabilità non mi dà l'informazione del momento in cui nasce effettivamente il debito, questa è l'unica stima, tra virgolette, scientifica che io posso fare. È leggermente al rialzo, però non è al rialzo in termini di la metà dell'importo, per arrivare grosso modo ai 90 miliardi che stima Banca Italia. Potrebbe essere al rialzo del 25-30% al massimo. Ora, quindi c'è un effetto di sovrastima, leggera sovrastima, tuttavia quelli sono impegni, sono promesse fatte di, ad esempio, di costruzione di un'opera pubblica. L'opera pubblica, altro aspetto, non si costruisce in un anno, quindi non è un debito commerciale dovuto nell'anno, dovuto adesso. Quegli 80 miliardi potrebbero essere dovuti anche fra un anno, fra due, fra tre, perché io pago il fornitore quando ho l'opera costruita, o gli stati si chiamano tecnicamente SAL, stato avanzamento lavori. Tuttavia sono impegni di spesa che dovranno essere pagati nell'arco di 2, 3, 4, 5, 10 6 anni. Massimo 10 anni. Certo. Quindi probabilmente, professore, la cifra ufficiale che circola è inferiore rispetto a quella che lei ci dà, perché fa tutto questo ragionamento e magari appunto identifica in questa voce delle spese in conto capitale come delle spese che possono essere più diluite nel tempo, per cui diciamo lo stock è ridotto in termini ufficiali per questo motivo, chiedo, non lo so. Perché ha dovuto lei fare questo lavoro per raccontare all'Italia che sono in realtà 150 quasi miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve alle imprese? Ecco, già da 137 ai 150 è nella discussione col giornalista, di fatto. È una stima che ignoro. Ecco, questa parte. Vabbè, 139. Esatto, 139, perdon. Fino ad arrivare ai 150 è quello che potrebbe essere una stima della parte relativa allo Stato. Ecco, lì ignoro le fonti informative. Ma perché allora, secondo lei, la stima ufficiale che gira è 70 miliardi o 90 di Banca Italia e non è invece la sua? Ecco, perché questo è un calcolo del debito, tra virgolette, la butto lì, politico, perché l'impegno di spesa, è vero, è un impegno tecnico, però di fatto è un impegno nei confronti, soprattutto per il conto capitale, della costruzione di un'opera. E quindi sono lavori già partiti, per cui si è già messo in moto, ecco, un meccanismo produttivo che deve essere remunerato prima o poi. Senza dubbio è partita la parte cosiddetta amministrativa, quantomeno è l'impegno antecedente la gara, però è una sorta di impegno a costruire un'opera, a farla quest'opera. Quindi esiste già anche il finanziamento sul lato delle entrate. E quindi delle due l'una, se gli 80 miliardi un domani non ci saranno, gli 80 miliardi della parte di conto capitale, della due l'una, o si va a incrementare i debiti commerciali, e quindi questi diventeranno debiti commerciali. Invece di pagarli, addirittura incrementarli? Esatto. Oddio, nel senso, esatto, se non si pagano si incrementano, o dall'altra parte non si costruiranno più le opere pubbliche, che se vogliamo è un po' quello che sta avvenendo. Quindi prima, da tutto il ragionamento che lei ci ha fatto, prima di arrivare a poter mettere in pagamento almeno una parte di tutti questi soldi, Confindustria chiede 48 miliardi, quante ne dovremo vedere ancora, professore? Cioè, voglio dire, è chiaro che qua aspettiamo intanto un nuovo governo che si insedia, chissà quando lo avremo, per cui quanta acqua sotto i ponti ancora dovrà passare, ma secondo lei, sulla base anche del ragionamento che ci ha fatto, che purtroppo lo riconosco anch'io, lo dicono molti ascoltatori, è un po' complicato effettivamente, ma insomma ci sono i presupposti affinché almeno una minima parte di questi soldi si sblocchino, con che modalità anche? Legislative, amministrative, non lo so, lei dal suo tavolo accademico che idea ha? Tavolo accademico, docente universitario, sì. Insomma. Senza dubbio, la parte più importante di questi 150 sono questi, ripeto, solamente per la parte enti locali, questi 57 circa miliardi sulla parte corrente. Faccio un inciso: questi sono dati del 2010 e noi ci troviamo al 2013, quindi ci troviamo di fatto. Quindi potrebbero essere anche più interessanti le cifre? Esatto. Ecco. Allora vede che ai 150 ci stiamo arrivando. Esatto, e questi, posto che è pubblica amministrazione locale, in particolare comuni e province, questi sono sottoposti al patto di stabilità. È il patto di stabilità molto spesso che frena questi pagamenti, specie nel conto capitale. Quindi di fatto quando la ANCI chiede questi 8-9 miliardi di, diciamo così, di sconto sul patto di stabilità, chiede un po' di ossigeno, ma in realtà vedete i numeri sono di gran lunga più ampi, quindi questi 150 miliardi sono sicuramente una sorta di, come posso dire, di sovrastima se vogliamo in parte, ma non è che si allontani molto dalla realtà. Mi viene da dire che probabilmente si dovrebbe riconoscere parte di questi crediti vantati nei confronti della PA come crediti di difficile pagamento da parte della PA, e quindi quelle pubbliche amministrazioni che hanno difficoltà nel pagare essere aiutate o con sgravi sul patto di stabilità, oppure se la difficoltà di pagamento non deriva dal patto di stabilità ma deriva da situazioni, noi analizziamo tutte le 8.100 amministrazioni comunali italiane, forniamo un rating di salute finanziaria, le posso tranquillamente dire che ci sono 500 circa comuni in Italia che non riescono a pagare non perché c'è il patto di stabilità ma perché hanno delle situazioni pessime, ad esempio per gli incassi, vicine al dissesto. Sì, molto semplicemente noi abbiamo pubblicato su Sole 24 Ore un'indagine sui cosiddetti residui attivi, che sono i crediti commerciali, quindi sono gli omologhi dei residui passivi. Ci sono comuni che a fronte di 100 euro di fatturato attivo, per spiegarci, hanno dei crediti incagliati pari a 200 euro. Eccoci ritrovati in diretta per l'ultima parte della prima parte di Focus Economia. È rimasto con noi Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Abbiamo sentito questa ricostruzione piuttosto ardita e complessa che ci ha fatto il professore Emanuele Padovani dell'Università di Bologna, che ha stimato e ha diffuso appunto questo suo studio, che l'ammontare reale dei debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese italiane, più che lo Stato, gli enti locali hanno nei confronti delle imprese italiane, non sia equivalente a quella cifra ufficiale che circola da molto tempo, una settantina di miliardi di euro, ma ben 139 miliardi, 69 miliardi riconducibili alle regioni, 48 miliardi ai comuni, quasi 20 miliardi alle province. Fabio Pavesi, allora qual è l'idea che ti sei fatto rispetto a questo dato? Ma la dotta interpretazione va bene, lui però è un accademico e quindi voglio dire la teoria è una cosa, la prassi è un'altra. Io qui farei solo un conto veramente della serva, molto banale. Ovviamente lui dice quelli commerciali sono 57 miliardi, gli 80 miliardi sono spese in conto capitale, cioè investimenti, è ovvio che sono investimenti sul lungo periodo, mentre si potrebbe aggredire la spesa corrente, cioè questi 57 miliardi sono debiti per spese di acquisto di servizi, non per costruire ponti. Quella spesa lì è liquidabile più facilmente. Allora io faccio anche un conto e dico: se le banche hanno tolto 50 miliardi di prestiti all'economia reale, potrebbero essere compensati sostanzialmente in modo quasi paritario dai 57 miliardi di debiti commerciali. Però lì occorre. Chi dovrebbe fare questo trasferimento e come? Con che veicolo? Con che modalità? Il trasferimento dovrebbe essere imposto da un decreto. Mm-hmm. Ci vorrebbe un governo. Cassa, che purtroppo prestiti, non abbiamo. Per esempio, non è sì, fattibile. Poi i meccanismi finanziari possono essere più complicati, ma il problema vero è che purtroppo noi abbiamo anche una contabilità pubblica assolutamente scassata. Io ricordo solo il fallimento del Comune di Napoli, un buco da 850 milioni. Ovviamente Napoli quindi non paga, è assita dai creditori, ma perché a sua volta non riscuote le entrate e ha pulito entrate non riscuotibili, le multe non pagate, addirittura delle gestioni Bassolino e Iervolino, cioè vecchie di 20 anni che mettevano a bilancio pur sapendo che non erano riscuotibili. Hanno pulito il bilancio, buco sulle entrate di 800 milioni. È ovvio che De Magistris a quel punto frena sulla spesa, cioè non paga il pregresso. Quindi è veramente un circolo vizioso tremendo. Purtroppo la finanza pubblica, il dramma vero è che noi abbiamo vissuto un'austerità pesantissima. C'è un conto banale. Allora, lo shock fiscale praticato dagli ultimi governi, Berlusconi e Monti, è stato di 4 punti di PIL. Cioè l'Italia ha sofferto circa 70 miliardi di stretta fiscale. La stretta fiscale ha effetti depressivi sulla crescita. Si stima, e il PIL del 2012 ha chiuso con un -2,4, la stima è che ci sarà un effetto trascinamento che porterà il PIL italiano nel 2013 a scendere non dell'1% ma forse del 2%. E quindi tu paghi sul fronte della crescita la stretta fiscale così poderosa, e tu l'hai fatto per il patto di stabilità, l'hai fatto per rispettare l'Europa. Il tema vero è che la Germania, a furia di chiedere questo rigore, rischia veramente di attorcigliare la situazione e creare i presupposti per cui il Sud Europa viva la recessione più pesante degli ultimi 50 anni. Senti, guarda, visto che non riesco a fare la borsa, ti chiedo a questo punto la cortesia di rimanere un altro paio di minuti e commentare ancora un altro paio di fatti che comunque si legano al tema principale che abbiamo affrontato, il tema bancario. Parlavi di borsa di Germania poco fa. Commerzbank oggi ha perso in borsa quasi il 4% perché starebbe preparando un aumento di capitale, perché anche lì naturalmente poi le loro difficoltà ce l'hanno e devono ricapitalizzarsi, evidentemente non riescono a fare anche raccolte adeguate per sostenersi patrimonialmente. La questione della bad bank proposta da Mediobanca ieri, proprio per poter delle banche insomma che devono comunque ripatrimonializzarsi in Italia, la vedi fattibile? Ma io starei attento a questa drammatizzazione che viene sempre da osservatori che stanno a Londra piuttosto che a New York. Allora, Commerzbank chiede un aumento di capitale, credo che sia il terzo che fa. Non va dimenticato che le banche anglosassoni, intendo le tedesche, le inglesi, le francesi, in realtà hanno richiesto aiuti pubblici dall'inizio della crisi Lehman per circa 1.500 miliardi solo in Europa. Noi abbiamo avuto il caso Monte dei Paschi, drammatico, che ha richiesto 4 miliardi. 39, cioè, sì. Se noi paragoniamo il sistema bancario italiano a quello del nord Europa, fatto dalle banche d'affari che lavorano sul trading finanziario, fanno meno prestiti alla clientela e sono più delle fabbriche di prodotti derivati, la situazione è più drammatica sulle banche anglosassoni, cioè lì i buchi di bilancio. Io ricordo solo il fallimento di Bankia in Spagna, 24 miliardi di buco. Dexia, banca franco-belga, ha fatto circa 15 miliardi di buco. Quelle sono fallite per davvero. Quindi attenzione, per i sistemi bancari noi guardiamo molto ossessivamente il nostro, siamo estremamente rigorosi. Banca Italia è un guardiano rigorosissimo. Però attenzione, perché i sistemi bancari del nord Europa sono intrinsecamente più fragili del nostro, cioè la crisi è partita dalle grandi banche d'affari, non dalle banche commerciali che stanno sul territorio. Questo tanto per spezzare una lancia ogni tanto a favore delle banche italiane. Esatto, no, poi tra l'altro va anche ricordato che questi 3 miliardi e 9 di Monte dei Paschi, ricordiamo anche questo, non è un, come dire, una situazione problematica, è una necessità che si è creata per la crisi finanziaria, perché Monte dei Paschi era tanto ovviamente esposto nel settore immobiliare italiano, eccetera. Ma va detto che le a banche proposito italiane di trascinamento, effetto trascinamento, sì. Anton Veda, abbiamo detto 2000 volte, comunque appunto il tema è attenzione, perché noi guardiamo le banche italiane, tendiamo ovviamente alle loro responsabilità, ne ho parlato a volte, a demonizzarle oltre misura, quando in realtà spesso le grandi banche del nord Europa sono piene di derivati, titoli tossici, fanno speculazione finanziaria aggressiva e sono tendenzialmente più instabili delle banche italiane. Eccoci ritrovati in diretta ancora, buonasera da Deborah Rosciani per Focus Economia. Questa sera un po' in ritardo con gli argomenti, abbiamo rinviato a questa seconda parte il resoconto della seduta di borsa. E quindi, cara Eleonora Micheli di Radio Cori, il Sole 24 Ore, dobbiamo raccontare tutti i temi che abbiamo in programma in maniera telegrafica. Buonasera Eleonora. Buonasera. Buonasera. Allora, borse oggi volatili, soprattutto Milano, che ha avuto una mattinata piuttosto felice, poi nel pomeriggio ci ha ripensato, -0,4%. Mi son letta la tua analisi su Radio Cori. Gli operatori dicono che è ancora colpa dello stallo politico? Eh sì, in effetti non a caso Milano ha registrato la peggior performance d'Europa, Parigi è salita ad esempio dello 0,10%, Francoforte ha fatto male ma comunque non male come Milano, che è stata appunto la peggiore d'Europa. Domani peraltro c'è un appuntamento molto importante, l'asta dei BTP, che sarà un nuovo banco di prova per comprendere lo stato d'anima degli investitori. Quest'oggi comunque l'asta dei titoli. Non dirci niente perché l'approfondisco tra poco con Isabella Bufacchi. Non ci dire nient'altro, andiamo ai temi di borsa. Saipem più 5,39%, come mai è ritornato tutto questo ottimismo su questo titolo? È da due giorni che le azioni vanno molto bene, ieri la società ha annunciato di aver siglato dei contratti in Africa settentrionale per 1,1 miliardi di dollari e quindi è da ieri che le azioni sono assolutamente ben comprate. Andiamo a vedere il secondo miglior performer della giornata, Mediaset, pure più 5%. Mediaset in questo caso si può dire che ha rialzato la testa e del resto, se si guarda il grafico, da novembre a metà gennaio è salita in continuazione guadagnando oltre il 70%. Poi dopo ha iniziato un po' a rallentare il passo e ha imboccato direttamente la strada del ribasso i giorni prima delle elezioni, tanto da perdere oltre il 20% fino ai giorni scorsi, quando invece sembra che voglia di nuovo rimbalzare. Finmeccanica più 2,78%, Telecom più 1,89%, tra gli altri migliori titoli Campari più 1,74%, Mediolanum più 1,67%. Oggi ha comunicato i conti Intesa San Paolo, come sono andati, Eleonora? Intesa San Paolo ha chiuso in utile, l'anno scorso nel 2011 invece aveva chiuso in perdita, ha detto che è tornata a distribuire anche una cedola, il mercato l'ha premiata con un progresso dello 0,4% in una giornata comunque in cui i bancari sono andati tutti male. Domani tocca ad UbiBank e presto anche ad Unicredit, ma non mi ricordo la data esattamente, comunque domani Ubi. Sì, domattina prima dell'apertura dei mercati. Più 0,06% per il titolo. Andiamo un po' ai peggiori. Qua abbiamo avuto un'improvvisa accelerazione verso il basso per STM, meno 4,60%, Salvatore Ferragamo, meno 4,49%. Questo titolo viaggiava sui massimi di sempre, corre senza sosta. Oggi però ci ha pensato un report di Société Générale a esprimere un po' di cautela sul lusso. Sì, infatti Société Générale ha indotto gli investitori alla cautela, la banca è stata seguita perché non solo Ferragamo ha perso il 4,4%, ma anche Tod's ha perso l'1,58% e Cucinelli, che subito dopo la chiusura del mercato ha comunicato i conti di bilancio, ha chiuso con un calo di oltre il 3%, ma sono tutti titoli che, come hai detto tu, hanno corso molto e quindi registrano una delle migliori performance. Ogni tanto qualcuno incassa necessariamente, qualche operatore. Invece perché Pirelli ha fatto meno 4,20? Meno 4,20, ieri ha comunicato conti che sono stati in linea con le attese, comunque conti in crescita. D'altra parte gli investitori hanno preso spunto, diciamo, per prendere profitto, perché anche queste azioni hanno fatto molto bene, soprattutto sul fatto che alla domanda rivolta a Marco Tronchetti Provera, il numero uno della società, sui target per il 2014, appunto il manager ha rinviato a quello che sarà il piano industriale dell'8 maggio, ma questo ha creato una certa perplessità e soprattutto comunque è stata un'occasione per prendere profitto. Oggi anche Monte dei Paschi ha rifrenato di nuovo, meno 3 Fiat, meno 2,58%, ieri la galassia Fiat molto bene, oggi invece di nuovo giù. Oggi giù, ma si tratta di prese di beneficio, ieri era andata bene, venerdì ricordiamo che erano le azioni salite durante della seduta addirittura del 10% festeggiando il contratto collettivo che è stato firmato, oggi quindi il calo è fisiologico, tanto più che ad esempio anche la concorrente Volkswagen è andata male, perché Audi ha comunicato, la controllata Audi ha comunicato conti record, infatti il fatturato ha continuato a salire, d'altra parte i margini si sono ridotti e quindi proprio per questo sono stati giudicati abbastanza deludenti, ma si fa per dire tra virgolette dagli analisti, perché aumentando i costi i margini rimasti all'azienda sono risultati più risicati. Intanto per chi ce lo chiede, il dividendo che Intesa distribuirà sarà di 5 centesimi, mentre ho trovato la notizia relativa alla comunicazione dei risultati di Unicredit, dovrebbe essere venerdì. Ecco, tra l'altro noto anche che ce lo stanno segnalando prontamente anche alcuni ascoltatori. C'è un'ammissione alla quotazione in borsa a Piazza Affari, quella per Moleskine, la società che produce le note agendine, i noti block notes, e tra l'altro questa mattina erroneamente avevo detto detto che si quotava oggi, invece c'è l'ok di Borsa Italiana alla prossima quotazione per questa società. Due secondi, anche 20 o 30, Eleonora, per segnalare qualche altro caso? Sì, un caso eclatante, oggi è Banca Intermobiliare, più 34%, i titoli sono stati sospesi per gran parte della seduta, proprio il Sole 24 Ore ha scritto quest'oggi che la controllante Veneto Banca sarebbe sul punto di cedere la controllata Banca Intermobiliare, a comprare sembra che sia UBS. La notizia evidentemente piace al mercato, che ci scommette e ci crede. Eh sì, quando si rimette in moto un po' anche tutto ciò che attiene al mondo delle fusioni, acquisizioni, aggregazioni, intese, insomma sono sempre battaglie e operazioni che il mercato cavalca molto volentieri. Grazie ad Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora, il commento sull'asta del Tesoro italiano, che era prevista per oggi ed era un'asta molto attesa perché è stata la prima prova del mercato dopo il declassamento che c'è stato affibbiato da Fitch venerdì scorso. Il debito italiano è una tripla B più. Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore, ancora buonasera. Allora, per questi bot annuali il mercato ha chiesto l'1,28%. Già a febbraio eravamo ritornati come rendimento sopra l'1% all'1,09. Mi sembra abbastanza ragionevole l'effetto Fitch. Sì, non credo che ci sia stato un grande effetto. Il mercato si attendeva che Fitch si adeguasse alle altre agenzie di rating, infatti la BBB più di Fitch adesso è allo stesso livello di Standard & Poor's, quindi non è il declassamento più temuto, che in realtà potrebbe essere quello di Moody's, che ha un rating più basso, alla BBB, e quindi un declassamento da Moody's ci avvicina ai junk, insomma quello è il declassamento più temuto, quindi un mercato che ha reagito abbastanza bene a Fitch, certo 20 centesimi in più, comunque su un punto, ecco, sono andata a calcolare che ahimè per il risparmiatore al netto della ritenuta e delle commissioni siamo sempre sotto l'1%, cioè questo bot rende lo 0,82, però per gli investitori istituzionali, per gli stranieri, un bot italiano a un anno che rende quasi l'1,30% rispetto, ricordiamo, alla Germania che colloca i suoi titoli a breve termine allo 0,0, è un buon affare, ecco, quindi c'è stata una buona domanda. Quindi tenuta per il titolo ad un anno. È più plausibile pensare che l'effetto potrebbe essere più marcato domani per le aste previste per la giornata di domani? Il Tesoro italiano mette sul mercato lo stesso equivalente di oggi, perché complessivamente abbiamo operazioni per tutta la settimana di circa 15 miliardi, BTP a 3-15 anni e CCT indicizzati all'inflazione europea. È possibile pensare ad un effetto più marcato domani per le lunghe scadenze, per le scadenze di medio-lungo termine, Isabella, oppure anche domani saremo anche più tranquilli? Sono abbastanza tranquilli, nel senso che si aspettano rispetto all'emissione di febbraio dei rendimenti in risalita di una ventina di centesimi, però stiamo parlando per ora rispetto al mercato di oggi, poi vediamo domani mattina come apre, quindi un BTP a 3 anni che dovrebbe rendere sempre lordo intorno al 2,5% rispetto al 2,30 di febbraio, mentre il BTP a 15 anni, se ci sono degli investitori che vogliono un po' di rendimento in più, ecco, quello arriva quasi in area 5%, e quindi però ecco, diciamo, come aumento dei rendimenti sempre una ventina di centesimi, ma credo che il mercato sia così un po' in attesa di vedere l'Italia cosa decide sul fronte politico. Ci sta dando ancora un po' di tempo, mettiamola così. Ecco, va. Sì, in effetti è ancora il beneficio del dubbio che possiamo uscire fuori con una minima stabilità. Una stabilità che per il mercato soprattutto significa portare avanti le nostre riforme strutturali per rilanciare la crescita, perché quello che il mercato teme, secondo me, più che le agenzie di rating, che oramai vengono sempre dopo gli eventi, è in realtà come andrà la nostra crescita. Cioè, noi dovevamo crescere, iniziare con qualche germoglio di crescita nella seconda metà di quest'anno. Ecco, questo stallo politico, se dovesse compromettere questo e continuare con un segno negativo di PIL anche nel 2014, ecco, secondo me, con un debito PIL come il nostro, questa è la notizia peggiore per il mercato. Qual è? Anche la politica è legata all'andamento dell'economia, se non dobbiamo sicuramente tornare a crescere per diciamo, un mercato che ancora detiene centinaia di miliardi di titoli di Stato italiani. Infatti, tra l'altro un'altra cosa da segnalare oggi interessante è che mentre noi siamo andati senza problemi sul mercato, ma abbiamo dovuto premiare gli investitori appunto con un rendimento un po' più salato rispetto all'ultima asta, per la Spagna invece la tendenza si sta invertendo, Isabella, perché oggi loro... Loro in effetti ancora 12 mesi rendono un po' più di noi, cioè hanno pagato l'1,36, però hanno pagato in meno una ventina di centesimi rispetto a febbraio, mentre noi li abbiamo pagati in più. C'è in effetti un po' di switch, secondo me, un po' più speculativo, cioè c'è chi esce dall'Italia ed entra sulla Spagna, però ricordiamoci che questo doveva essere l'anno in cui la Spagna avrebbe chiesto l'aiuto esterno, perché aveva i problemi delle banche e i problemi delle regioni e anche loro problemi di crescita. Quindi è vero che magari non hanno il problema politico come lo abbiamo noi in questo momento, però secondo me Italia e Spagna sono i due periferici che sono veramente legati, non si possono sganciare l'uno dall'altro, quindi ogni tanto andiamo meglio loro, ogni tanto vanno peggio loro, però secondo me ecco, uno stallo politico italiano prolungato rischia poi di trascinarsi dietro anche la Spagna. Un'ultima domanda, Isabella, poi ti lasciamo. Sentivo nel tuo commento che hai registrato per il sito web del Sole 24 Ore, per tutti gli ascoltatori, per cui invito ad andare a dare un'occhiata, appunto indicavi come nell'asta di oggi il Tesoro ha collocato, appunto lo abbiamo ricordato, 7 miliardi e 750 milioni di euro a fronte di un pacchetto da 8 miliardi che andava in scadenza, per cui ha collocato leggermente meno. Questo per arrivare a chiederti fino a questo punto quanto fa bisogno soddisfatto lo Stato italiano, le aste sono andate tutte bene fino a questo momento, mi pare il 25% del fabbisogno del medio-lungo termine, giusto? Sì, hanno anticipato quest'anno, mi dicevano gli operatori che di solito il nostro tesoro spalma diciamo durante l'anno le sue aste e non appesantisce gli investitori in alcuni periodi rispetto ad altri, piuttosto prevedibile, mentre invece quest'anno è stato fatto parecchio, un po' di fieno in cascina in più nei primi mesi, e credo questo proprio per anticipare effettivamente un rischio politico che il mercato aveva sottovalutato, ecco, questo si può dire tranquillamente perché il mercato si aspettava delle elezioni poi alla fine con un risultato tranquillo, governabilità, un governo stabile che portava avanti le riforme, la tenuta di conti pubblici, ecco, mentre invece il Tesoro è stato molto prudente, non perché anticipava dei problemi, ma proprio perché, noi ricordiamolo, siamo il primo emittente di titoli di Stato in Europa, le nostre aste sono le più pesanti di tutte, nessuno fa bot come noi da 8 miliardi in un solo colpo, quindi noi dobbiamo sempre andare avanti prudentemente e il Tesoro in questo ha ad anticipato quello che poteva di più in un periodo di tranquillità, ricordiamo che a inizio anno c'era molta liquidità, molti acquisti, lo spread si era stretto, gli investitori compravano tutto quello che gli si dava e quindi è anche giusto sfruttare queste finestre. Molto bene, grazie Isabella, buona serata e buon lavoro. Buonasera a tutti. A presto, adesso gli ultimi 5 minuti di tempo li dedichiamo ad un settore che piace molto alle famiglie italiane, il settore immobiliare. Per quale motivo affrontiamo questo tema? Perché governo, banche e associazioni del settore immobiliare stanno lavorando ad un pacchetto di misure per il rilancio del settore che è in grande difficoltà. Come sapete, le compravendite sono in calo costante da almeno 4 anni a questa parte. Questo pacchetto di misure per il rilancio del mercato è stato presentato questa mattina nel corso della presentazione del rapporto Il risparmio immobiliare privato dell'International University College di Torino, una iniziativa organizzata dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Asso Immobiliare e Fondazione Italiana per il Notariato. Buonasera, Paolo Crisafi, direttore generale di Asso Immobiliare. Buonasera a tutti, piacere sentirvi. Grazie, direttore. Ci dica un po' che cosa contiene questo pacchetto, a che misure di rilancio state pensando. Noi quello che ci ricordiamo molto bene è stata per esempio la giornata della collera che il settore edilizio ha organizzato poco più di un mese fa, se non mi ricordo male, circa a Piazza Affari. Quindi insomma è un comparto che chiede a gran voce da tempo interventi, ma lo Stato, il governo, più degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, insomma non riesce a fare. Poi tra l'altro pure queste termineranno a giugno. Allora, mi metto brevemente e rapidamente il cappello della giornata della Collora a cui Assimmobiliare ha partecipato qualche mese fa insieme ad altre sigle del mondo delle costruzioni, dove abbiamo lamentato un giorno una serie di tematiche che non trovano soluzioni e abbiamo fatto una serie di proposte. Su quella scia, insieme ad Abbi, abbiamo organizzato un tavolo di lavoro per analizzare tutte le tematiche a sostegno al credito per lo sviluppo immobiliare. Ed è un tavolo che è alimentato, oltre che da Assimmobiliare, c'è un rapporto molto pregnante anche con l'ANCE, che è l'altra anima delle costruzioni. La giornata odierna invece è stata una giornata diversa per l'immobiliare, le devo dire di grande positività, perché oltre alla fondazione del notariato era presente anche l'agenzia delle entrate / agenzia del territorio, dove l'immobiliare trova veramente un buon funzionamento del sistema pubblico grazie alle eccellenze che sono all'interno di questi organismi che aiutano a fare trasparenza su un mercato purtroppo non sempre facile da comprendere. Da affrontare, certo. Che cosa avete proposto allora? Che cosa pensate di fare per poter rilanciare il comparto? Allora, ci sono due pratiche. Uno, le agenzie pubbliche mettono a disposizione la loro professionalità e aggiustando in maniera armonica i dati, e quindi questa pubblicazione Risparmio Immobiliare Privato fa proprio il punto della situazione e fa una comparazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Questa, diciamo, è la parte più dotta. La parte invece più pratica, partendo da questa dotta, sono state analizzate in sede di Assimmobiliare una serie di proposte che possano portare gli investitori in Italia, così come succede in altri paesi, ovvero armonizzare la normativa degli strumenti finanziari, che sono le SGR e le SIC. Sono i due strumenti che garantiscono la trasparenza e la qualità poi del prodotto immobiliare, che in Italia ancora non sono completamente normati. Quindi rilanciare nella sostanza gli strumenti finanziari legati al settore immobiliare, come i fondi immobiliari, che tutto sommato in Italia un grandissimo successo non l'hanno mai avuto, dottore Crisafi? Sì, pensate a questo. Di questi strumenti, e abbiamo un'occasione a breve, c'è una direttiva comunitaria AIFM che deve essere recepita entro luglio, che potrà aggiustare e perfezionare di molto la normativa, e quindi dobbiamo stare con il governo, con gli esponenti tecnici pronti a cogliere questa opportunità. Benissimo, ci faccia sapere come andranno le cose. Intanto grazie a Paolo Crisafi, direttore generale di Asso Immobiliare. Focus Economia termina qui. Io ringrazio Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Marco Lombardo per la collaborazione e l'assistenza tutto il giorno in redazione, Pietro Lacorte invece per l'assistenza tecnica. Focus Economia torna domani sera con Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo invece domani alle 12.10 con Salva Danaio. A tutti buona serata. Radio 24. La passione si sente.